aprite un poco gli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, guardate cosa son, guardate, guardate cosa son. Queste chiamate dee dagli ingannati sensi, a cui tributa incensi la debole ragion, la debole ragion, la debole ragion. Son streghe che incantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar, civette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci lume. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono e mentono amore. Non sento, non sento pietà, non sento pietà, no, no, no, no. Il resto non dico, già ognuno lo sa. Aprite un poco gli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche da fanni che fingono e mentono amore. Non sento, non sento pietà, non sento pietà, no, no, no, no. Il resto non dico, già ognuno lo sa. Il resto non dico, già ognuno lo sa, già ognuno lo sa, già ognuno lo sa, già ognuno lo sa.